Capitolo 6. Nella landa. Fece Germain quando ebbero fatto qualche passo. Cosa penseranno a casa non vedendo ritornare questo ragazzino? I nonni si preoccuperanno e lo cercheranno dappertutto. Andrete a dire al cantoniere che lavora lassù sulla strada che lo portate con voi e gli raccomanderete di avvertire la vostra gente. È vero, Marie. Tu escogiti proprio tutto. Io non pensavo più che Jeannie abitava proprio là. E invece abita appunto vicinissimo alla fattoria e non mancherà di fare la commissione che gli chiederete. Presa tale precauzione, Germain rimise la giumenta al trotto e Petit Pierre era così gioioso che non si accorse subito che non aveva pranzato. Ma dato che il movimento del cavallo gli metteva appetito, dopo circa una lega cominciò a sbadigliare, a impallidire e a confessare che moriva di fame. «Ecco che comincia», disse Germain. «Sapevo bene che non saremmo andati lontano senza che questo signore protestasse per la fame o la sete». «Ho anche sete!» fece Petit Pierre. «Ebbene, allora entreremo nella taverna di Mamma Rebecca Corlé. Si chiama Sul Far del Giorno». «Bella insegna, ma un misero posto». «Su, Marie, berrai anche tu un dito di vino». «No, no, non ho bisogno di niente», fece lei. «Terrò la giumenta mentre voi entrerete con il piccolo». «Ma io mi preoccupo, mia buona ragazza. Stamattina hai dato il tuo pane al mio Pierre e sei a digiuno. Non hai voluto pranzare con noi a casa. Non facevi che piangere». «Oh, non avevo fame. Soffrivo troppo. E vi giuro che ancora adesso non ho nessuna voglia di mangiare». «Devi sforzarti, piccola, altrimenti ti ammalerai. Abbiamo del cammino da percorrere e non bisogna arrivare a destinazione come degli affamati che chiedono pane prima di dir buongiorno. Io stesso voglio darti l'esempio, sebbene non abbia un gran appetito, ma la spunterò, visto che dopo tutto non ho pranzato neanch'io». «Li vedevo piangere, tu e tua madre, e la cosa mi faceva male al cuore. Su, su, vado a legare la grisa alla porta. Scendi, lo voglio». Entrarono tutti e tre dalla Rebecca e in men di un quarto d'ora la grossa donna zoppicante riuscì a servir loro una frittata di bell'aspetto, del pane bigio e del vino chiarello. I contadini non mangiano rapidamente e il piccolo Pierre aveva un tale appetito che passò un'ora buona prima che Germain potesse pensare di rimettersi in cammino. All'inizio la piccola Maria aveva mangiato per compiacenza, poi a poco le era venuta fame, perché a 16 anni non si può stare a lungo a digiuno e l'aria di campagna è imperiosa. Le buone parole che Germain seppe dirle per consolarla e incoraggiarla produssero l'effetto voluto, raggiungendo lo scopo. Lei fece uno sforzo per persuadersi che 7 mesi sarebbero presto passati e per pensare alla felicità che avrebbe poi provato nel ritrovarsi nella sua famiglia e nel suo paesetto, poiché papà Maurice e Germain si erano messi d'accordo per prometterle di prenderla al loro servizio. Ma la ragazza cominciava a divertirsi e a scherzare con il piccolo Pierre, quando Germain ebbe la fortunata idea di farle guardare, attraverso la finestra della taverna, la bella vista della vallata che si vede tutta intera da quell'altura e che è così ridente, così verde, così fertile. Marie guardò e domandò se di là si scorgevano le case di Bel Air. «Senza dubbio», disse Germain, «e la fattoria, e persino la tua casa. Guarda quel puntino grigio, non lontano dal grande pioppo di Godard, più in basso del campanile». «Oh, la vedo», disse la piccola, e a tal punto ricominciò a piangere. «Ho fatto male a farti pensare a questo», disse Germain. «Oggi non faccio che delle sciocchezze». «Coraggio, Marie, andiamocene, ragazza mia. I giorni sono corti e fra un'ora, quando si alzerà la luna, non farà certo caldo». Si rimisero in cammino, attraversarono il grande scopeto e siccome, per non affaticare la ragazza e il bambino con un trotto troppo serrato, Germain non poteva far andare la gris molto forte, il sole era già tramontato quando lasciarono il sentiero per arrivare al bosco. Germain conosceva il cammino fino a Magné, ma pensò che l'avrebbe accorciato non percorrendo il viale di Chanteloup, bensì scendendo per Pré la Sculpture, direzione che non aveva l'abitudine di prendere quando si recava alla fiera. Sbagliò strada e perse ancora un po' di tempo prima di entrare nel bosco. Per di più non vi entrò dalla parte giusta e non se ne accorse, così che volse le spalle a Forche e arrivò molto più in là, verso Ardon. Ciò che gli impediva di orientarsi era una nebbia che si levava con il sopraggiungere della notte, una di quelle nebbie delle serate d'autunno, rese ancora più vaghe e ingannevoli dal candore del chiaro di luna. Le grandi pozzanghere di cui le radure sono cosparse esalavano vapori così spessi che mentre la Grisele attraversava si percepiva solo il rumore dell'acqua agitata dai suoi zoccoli e la fatica che faceva per sollevarli dalla melma. Quando finalmente ebbero trovato un bel percorso dritto e furono arrivati fino in fondo, Germain cercò di capire dov'era e si rese conto perfettamente di essersi perduto. Infatti, Papa Maurice, spiegandogli la strada, gli aveva detto che all'uscita del bosco avrebbe dovuto scendere un tratto di costa molto ripido, attraversare un prato immenso e passare due volte il fiume secondario a guado. Gli aveva anche raccomandato di entrare in quel fiume con precauzione, perché all'inizio della stagione c'erano state delle grandi piogge e l'acqua poteva essere un po' alta. Non vedevano né discesa, né prato, né fiume, ma solo la landa uniforme bianca come una distesa di neve. Germain si fermò, cercò una casa, attese un passante, ma non trovò nulla che potesse dargli un'indicazione. Allora tornò sui suoi passi e rientrò nel bosco, ma la nebbia si inspessiva ancora, la luna ne fu del tutto velata. I sentieri erano orribili, i pantani profondi. Per ben due volte la Grise fu sul punto di cadere. Carica com'era, perdeva coraggio e se conservava un po' di discernimento per non urtare contro gli alberi, non poteva tuttavia impedire che quelli che la montavano avessero a che fare con grossi rami che sbarravano il cammino all'altezza delle loro teste, mettendoli in serio pericolo. Germain perdette il cappello a causa di un ramo e fece molta fatica a ritrovarlo. Petit Pierre si era addormentato e lasciandosi andare come un sacco ingombrava talmente le braccia di suo padre che questi non poteva più né incitare né guidare il cavallo. Credo che siamo stati stregati, disse Germain, perché questi boschi non sono abbastanza grandi per perdervisi, a meno che non si sia ubriachi, e noi ci rigiriamo da 2 ore senza poterne uscire. La Grise non ha che un'idea in testa, e cioè di tornare a casa. Ed è lei che mi fa smarrire. Se vogliamo tornarcene a casa non abbiamo che da lasciarla fare, ma quando siamo forse a 2 passi dal luogo dove dobbiamo dormire, bisognerebbe essere matti per rinunciare e riprendere un cammino tanto lungo. Tuttavia, non so più cosa fare. Non vedo né cielo né terra e temo che questo bambino prenda la febbre se restiamo in questa dannata nebbia o che venga schiacciato dal nostro peso se il cavallo cade in avanti. Non dobbiamo ostinarci oltre, disse la piccola Marie. Scendiamo, Germain. Datemi il bambino, lo porterò benissimo e impedirò meglio di voi che il mantello, scostandosi, lo lasci scoperto. Voi condurrete la giumenta per la briglia e ci vedremo forse meglio quando saremo più vicini al suolo. Questa precauzione servì solo a evitare una caduta da cavallo, poiché la nebbia strisciava e pareva appiccicarsi alla terra umida. Il cammino era penoso e furono presto talmente spossati che si fermarono, imbattutisi finalmente in un luogo asciutto sotto delle grandi querce. La piccola Marie grondava di sudore, ma non si lamentava né si preoccupava di nulla. Occupandosi solo del bambino, si sedette sulla sabbia e lo sdraiò sulle proprie ginocchia, mentre Germaine esplorava i dintorni dopo aver passato le redini della Grisa attorno a un ramo d'albero. Ma la Grisa, contrariata da quel viaggio, diede un colpo di rene, si svincolò dalle redini, ruppe le cinghie e, lasciando come ricevuta una mezza dozzina di calci più alti della propria testa, si slanciò verso il bosco ceduo, dimostrando benissimo che non aveva bisogno di nessuno per ritrovare il suo cammino. Ecco, fece Germain dopo aver tentato invano di riprenderla, siamo a piedi e non ci servirebbe a nulla trovarci sulla buona strada, perché dovremmo attraversare il ruscello a piedi e a giudicare da come questi sentieri sono pieni d'acqua. Possiamo essere certi che il prato sarà davvero inondato. Non conosciamo altri passaggi. Sarà dunque necessario attendere che la foschia si dissipi. Non può durare più di un'ora o due ormai. Quando ci vedremo bene, cercheremo una casa, la prima al confine del bosco. Ma ora non possiamo uscire da qui. Là c'è una fossa, uno stagno, qualcosa del genere davanti a noi. E dietro non saprei neanche dire cosa ci sia, perché non capisco più da che parte siamo arrivati. Capitolo 7. Sotto le grandi querce. Ebbene, dobbiamo aver pazienza, Germain, disse la piccola Marie. Non stiamo poi male su questa piccola altura. La pioggia non penetra tra il fogliame di queste grosse querce e possiamo accendere un fuoco, perché scorgo dei vecchi ceppi sradicati che sono abbastanza secchi per infiammarsi. Avete qualcosa per fare del fuoco, Germain? Poco fa fumavate la pipa. Avevo qualcosa. Il mio acciarino era sul basto, nella mia sacca, con la selvaggina che portavo alla mia futura sposa. Ma quella maledetta giumenta si è portata via tutto, anche il mio mantello, che sicuramente perderà e lacererà contro tutti i rami. No, Germaine, il basto, il mantello, la sacca, tutto lì per terra, ai vostri piedi. La grisa ha rotto le cinghie e ha gettato tutto da parte andandosene. Hai ragione, buon Dio, fece l'aratore. E se riuscissimo a trovare un po' di legna secca a tastoni, potremmo asciugarci e scaldarci. Non è difficile, disse la piccola Marie. Il legno secco scricchiola dappertutto sotto i piedi, ma datevi prima il basto. Cosa vuoi farne? Un letto per il piccolo? No, non così, al contrario. In questo modo non rotolerà sul sentiero e il basto è ancora tutto caldo del dorso del cavallo. Rincalzatelo a ogni lato con queste pietre che vedete là. Non le vedo io. Hai proprio degli occhi da gatto. Guardate. Ecco fatto, Germaine. Datemi il vostro mantello perché possa avviluppare i suoi piedini e stendete la mia cappa sul suo corpo, vedete? Non è forse messo bene come nel suo letto? E tastatelo per sentire com'è caldo. È vero. Tu sei esperta nel curare i bambini, Marie. Non è difficile. Adesso cercate il vostro acciarino nella sacca e io ammucchierò la legna. Questa legna non si accenderà mai, è troppo umida. Voi dubitate di tutto, Germaine. Non vi ricordate dunque di essere stato pastore e di aver acceso grandi fuochi nei campi nel bel mezzo della pioggia? Sì, è il talento dei bambini che curano le bestie, ma io sono stato guidatore di buoi da quando ho imparato a camminare. È appunto per questo che siete più forte di braccia che abile di mani. Eccolo pronto questo rogo. Vedrete subito se non si accende. Datemi del fuoco e un po' di felce secca. Bene, adesso soffiate. Non siete mica tisico. Non che io sappia, fece Germaine soffiando come un mantice di fucina. In un istante la fiamma brillò, gettò all'inizio una luce rossa e finì per elevarsi in getti bluastri sotto il fogliame delle querce, lottando contro la foschia e asciugando a poco l'atmosfera a 10 piedi all'intorno. Adesso vado a sedermi vicino al piccolo perché non gli cadano addosso delle scintille, disse la ragazza. Voi mettete della legna e ravvivate il fuoco, Germaine. Così non prenderemo né febbre né raffreddore, ve lo assicuro. Davvero sei una ragazza sveglia, disse Germaine, e sai fare il fuoco come una piccola strega della notte. Mi sento tutto risollevato e mi torna il coraggio, perché con le gambe bagnate fino alle ginocchia, l'idea di rimanere così fino all'alba ero d'umore molto nero poco fa. E quando si è di cattivo umore non si riflette su niente, riprese la piccola Marie. E tu non sei dunque mai di cattivo umore? Eh no, mai! A che serve? Ah, non serve a niente, certo. Ma come si fa a farne a meno quando si hanno dei fastidi? Dio sa che a te i fastidi non sono mancati, tuttavia, mia piccola povera, perché non sei sempre stata felice. È vero, abbiamo sofferto, la mia povera madre e io, abbiamo avuto dei dispiaceri, ma non ci siamo mai perse d'animo. Non mi perderei d'animo per qualsiasi lavoro dovessi fare, ma la miseria. Mi dispiacerebbe perché non mi è mai mancato niente. Mia moglie mi aveva reso ricco e lo sono ancora. Lo sarò fino a che lavorerò alla fattoria, il che sarà per sempre, spero. Ma ognuno deve avere la propria sofferenza. Io ho sofferto in altro modo. Sì, avete perso vostra moglie ed è una grossa disgrazia. Non è vero? Oh, l'ho pianta molto anch'io, sapete, Germaine? Perché era tanto buona. Guardate. Non parliamone più, perché la piangerei ancora. Oggi tutte le mie pene stanno tornandomi in mente. È vero che ti voleva molto bene, piccola Marie. Aveva molta stima per te e per tua madre. Su, via. Piangi. Su, figliola, non voglio mica mettermi a piangere anch'io. Eppure piangete, Germaine. Piangete anche voi. Che vergogna c'è per un uomo nel piangere la propria moglie? Non trattenetevi su. Io condivido con voi questa pena. Hai davvero buon cuore, Marie, e mi fa bene piangere con te. Ma avvicina i piedi al fuoco. Hai anche le gonne tutte bagnate, povera ragazzina. Guarda, prendi il tuo posto vicino al piccolo. Riscaldati meglio tu. Ho abbastanza caldo, disse Marie. Se volete sedervi, mettetevi pure su di un pezzo del mantello. Io sto benissimo. Il fatto è che qui non si sta poi tanto male, disse Germaine, sedendosi vicino a lei. Solo la fame mi tormenta un po'. Sono già le 9 di sera e ho fatto tanta fatica a camminare per questi sentieri difficili che mi sento indebolito. E tu non hai fame, Marie? Io? Per niente. Non sono abituata, come lo siete voi, a fare quattro pasti e mi sono coricata talmente spesso senza cenare che una volta di più non mi prendo affatto alla sprovvista. Ebbene, sarebbe conveniente una donna come te. Non darebbe spese, disse Germain sorridendo. Io non sono una donna, disse ingenuamente Marie, senza minimamente accorgersi della piega che cominciavano a prendere le parole dell'oratore. State forse sognando? Sì, credo di sognare, rispose Germain. Forse è la fame che mi fa sognare. Come siete goloso, riprese lei, diventando allegra a sua volta. Bene, se allora non potete vivere 5-6 ore senza mangiare, non avete mica della selvaggina nella sacca e del fuoco per cuocerla? Caspita, è una buona idea! Ma il dono al mio futuro suocero? Avete 6 pernici e una lepre. Non penso che vi serva tutto ciò per saziarvi. Ma far cuocere la carne qui, senza spiedo e senza lari, diventerà carbone. Ma no, fece la piccola Marie. Mi incarico di farvela cuocere sotto la cenere senza che prenda sapore di fumo. Non avete mai acchiappato delle allodole nei campi e fate poi cuocere tra due pietre? Ah, è vero, dimentico che voi non avete mai fatto il pastore. Su, spennate questa pernice. Non così forte, le strappate la pelle. Potresti spennare l'altra per farmi vedere come si fa? Volete dunque mangiarne due? Che orco! Ecco le spennate. Adesso le cuocio. Saresti una perfetta vivandiera, piccola Marie, ma per sfortuna non hai un baule e sarò ridotto a bere l'acqua di questa palude. Vorreste del vino, vero? E ci vorrebbe del caffè. Credete forse di essere alla fiera sotto il pergolato? Chiamate l'oste, liquore al fiero oratore di Bel-Air. Piccola insolente, ti stai prendendo gioco di me. Non berresti anche tu del vino se ne avessi? Io ne ho bevuto questa sera con voi all'osteria dove ci siamo fermati per la seconda volta in vita mia. Ma se sarete buono, ve ne darò una bottiglia quasi piena e di vino buono persino. Come, Marie? Sei dunque una maga, insomma. Non avete forse commesso la follia di chiedere due bottiglie di vino all'osteria? Ne avete bevuta una con il vostro piccolo? E io ho appena inghiottito qualche goccia di quella che mi avevate messo davanti. Tuttavia le avete pagate entrambe senza farci caso. E allora? E allora ho messo nel mio paniere quella che non era stata bevuta perché ho pensato che voi o il piccolo avreste avuto sete in cammino. Ed eccola qua. Sei la ragazza più avveduta che abbia mai incontrato. Guardate un po'. Eppure piangeva questa povera bambina uscendo dalla locanda. Ma questo non le ha impedito di pensare agli altri più che a se stessa. Piccola Marie, l'uomo che ti sposerà non sarà certo uno sciocco. Lo spero, perché non amerei uno sciocco. Su, mangiate le vostre pernici, sono cotte al punto giusto, e in mancanza di pane vi dovrete accontentare di castagne. E dove diavolo hai preso anche delle castagne? È davvero sorprendente. Per tutto il percorso ne ho preso dai rami, passando, e me ne sono riempita le tasche. E sono cotte anche quelle? Dove avrei dovuto avere la testa se non le avessi messe al fuoco appena è stato acceso? Si è soliti fare così nei campi. Coraggio, piccola Marie. Ceneremo insieme. Voglio bere la tua salute e augurarti un bravo marito. Sì, proprio tale quale lo desidereresti tu. Dimmi un po' come lo vorresti. Avrei molte difficoltà, Germain, perché non ci ho ancora pensato. Come? Proprio per niente? Mai? Chiese Germain, cominciando a mangiare con un appetito da oratore, ma tagliando i pezzi migliori per offrirli alla sua compagna, che rifiutò ostinatamente e si accontentò di qualche castagna. Dimmi dunque, piccola Marie, ricominciò, dato che lei non accennava a rispondergli. Non hai ancora pensato al matrimonio? Ne hai l'età, tuttavia. Forse, disse lei, ma sono troppo povera. Ci vogliono almeno 100 scudi per formare una famiglia e io devo lavorare 5-6 anni per accumularli. Povera ragazza, vorrei che papà Maurice accettasse di darmi 100 scudi per fartene regalo. Grazie davvero, Germain. Ma cosa si direbbe allora di me? Cosa vuoi che si dica? Si sa bene che sono vecchio e che non posso sposarti. Allora non si supporrebbe che io, che tu. Guardate, oratore. Ecco vostro figlio che si sveglia, disse la piccola Marie. Capitolo 8. La preghiera della sera. Petit Pierre si era sollevato e si guardava attorno con un'espressione pensosa. Fa sempre così quando sente mangiare quello? Fece Germain. Il rumore del cannone non lo sveglierebbe, ma quando si fanno andare le mascelle vicino a lui, apre subito gli occhi. Avete dovuto essere così anche voi alla sua età, disse la piccola Marie con un sorriso malizioso. Su, mio piccolo Pierre, cerchi il tuo baldacchino? È fatto di vegetazione questa sera, bimbo mio. Ma tuo padre non rinuncia alla sua cena. Vuoi mangiare con lui? Non ho mangiato la tua parte. Immaginavo che l'avresti reclamata. Marie, voglio che mangi anche tu, esclamò l'aratore. Io non ne mangerò più. Sono un goloso, un grossolano. Tu invece ti privi per noi. Non è giusto e me ne vergogno. Guarda, mi hai fatto passare la fame. Non voglio che mio figlio ceni, se non lo fai anche tu. Lasciateci in pace, rispose la piccola Marie. Non avete la chiave dei nostri appetiti. Il mio è chiuso oggi, ma quello del vostro Pierre è aperto come quello di un lupetto. Guardate come ci si mette. Ah, sarà anche un forte aratore. In effetti il piccolo Pierre mostrò subito di chi era figlio e appena svegliato, non comprendendo né dov'era né come vi era arrivato, si mise a divorare. Poi, quando non ebbe più fame, trovandosi tutto eccitato, come capita ai bambini che rompono le loro abitudini, ebbe più spirito, più curiosità e più ragionamento del solito. Si fece spiegare dov'era e quando seppe che si trovava nel bel mezzo di un bosco, ebbe un po' paura. «Ci sono delle bestie feroci in questo bosco?» domandò suo padre. «No», fece questi, «non ve ne sono affatto». «Non temere». «Allora, hai mentito quando mi hai detto che se fossi venuto con te nei grandi boschi i lupi mi avrebbero portato via?» «Vedete dunque questo ciarlone?» fece Germaine imbarazzato. «Ha ragione», riprese la piccola Marie. «Gli avete detto proprio così, ha una buona memoria, se ne ricorda. Ma ricordati, mio petit Pierre, che tuo padre non mente mai. Abbiamo attraversato i grandi boschi mentre dormivi e adesso siamo in quelli più piccoli, dove non ci sono bestie feroci. I boschi piccoli sono tanto lontani da quelli grandi? Piuttosto lontani, dall'altra parte. I lupi non escono mai dai grandi boschi. E poi, se anche ne arrivassero, tuo padre li ucciderebbe. E anche tu, piccola Marie? E anche noi, perché tu ci aiuteresti, vero mio Pierre? Tu non hai paura, picchieresti ben forte». «Sì, sì», fece il bambino inorgoglito, prendendo una posa eroica. «Li uccideremmo!» «Non c'è nessuno che sappia parlare come te ai bambini», disse Germaine alla piccola Marie, «e che faccia loro intendere ragione. Certo, è vero che fino a poco tempo fa eri una bambina tu stessa e ti ricordi di ciò che ti diceva tua madre. Credo proprio che più si è giovani e meglio ci si intende con quelli che lo sono. Ho davvero paura che una donna di 30 anni, che non sa ancora cosa significhi essere madre, impari molto difficilmente a ciarlare e a ragionare con dei marmocchi». «Perché no, Germaine? Non so proprio perché avete un'idea negativa riguardo a quella donna. Cambierete opinione». «Al diavolo la moglie», disse Germaine. «Vorrei aver cambiato idea prima, una volta per tutte. Cosa me ne faccio di una donna che non conosco?» «Paparino», disse il figlio, «perché dunque parli sempre di tua moglie oggi, dato che è morta?» «Ahimè, allora non l'hai dimenticata tu, la tua povera cara mamma?» «No, dato che l'ho vista mettere in una bella cassa di legno bianco e che la nonna mi ha portato vicino a lei per baciarla e dirle addio. Era tutta bianca e fredda e tutte le sere la zia mi fa pregare il buon Dio perché la mamma vada a riscaldarsi con lui in cielo». «Credi che adesso sarà là?» «Lo spero, piccolo mio, ma bisogna sempre pregare. Questo dimostra a tua madre che le vuoi bene». «Adesso dirò la mia preghiera», riprese il bambino. «Non ho pensato a dirla stasera, ma non posso dirla da solo, ne dimentico sempre un pezzo. Bisogna che la piccola Marie mi aiuti». «Sì, mio Pierre, ti aiuterò», disse la ragazza. «Vieni qui a metterti in ginocchio su di me». Il bambino si inginocchiò sulla gonna della giovinetta, congiunse le manine e si mise a recitare la sua preghiera, dapprima con attenzione e fervore, perché ne conosceva benissimo l'inizio, poi con più lentezza ed esitazione. E infine, ripetendo parola per parola quello che gli dettava la piccola Marie, giunse al punto della sua orazione, in cui il sonno lo sorprendeva ogni sera, impedendogli di impararla fino alla fine. Anche questa volta lo sforzo dell'attenzione e la monotonia del proprio accento produssero il loro solito effetto. Egli non pronunciò che con estrema fatica le ultime sillabe e persino dopo essersele fatte ripetere 3 volte. La testa gli si appesantì e si chinò sul petto di Marie. Le mani gli si allentarono, si separarono e gli ricaddero aperte sulle ginocchia. Al bagliore del fuoco del bivacco, Germain guardò il suo angioletto assopito sul cuore della giovinetta, che sostenendolo tra le braccia e scaldandogli i capelli biondi con il suo alito puro, si era lasciata andare a una fantasticheria devota e pregava mentalmente per l'anima di Catherine. Germain si intenerì, cercò qualcosa da dire alla piccola Marie che potesse esprimerle la stima e la riconoscenza che gli ispirava, ma non trovò nulla che potesse rendere il suo pensiero. Lei si avvicinò per baciare il figlio che lei teneva sempre stretto a sé e fece fatica a staccare le labbra dalla fronte del piccolo Pierre. «Lo baciate troppo forte», gli disse Marie respingendo dolcemente la testa dell'aratore. «Lo sveglierete». «Lasciate che lo ricorichi, perché ecco che riparte per il mondo dei sogni». Il bambino si lasciò adagiare, ma stendendosi sulla pelliccia di capra del basto, domandò se era sulla grise. Poi, aprendo i suoi grandi occhi azzurri e tenendoli fissi sui rami per un minuto, parve sognare da sveglio o essere colpito da un pensiero che gli si era insinuato nella mente durante il giorno e che vi si formulava con l'avvicinarsi del sonno. «Paparino», disse, «e se vuoi darmi un'altra mamma, voglio che sia la piccola Marie». E senza attendere risposta, chiuse gli occhi e si addormentò.